Ciao a tutti, benvenuti a Gironimo. Il ragusano. Il ragusano Damiano Caruso vi dà il benvenuto a Gironimo. Sì, quindi ha detto ragusano. Ah, il ragusano, dai. Il ragusano, come te lo dico? Benvenuto. No, è uguale, benvenuti, benvenuti. In siciliano non tutto si può tradurre. Amiche e amici del ciclismo, delle montagne, della notte, della stanchezza, stanchezza che entra in tutte le membra che compongono i nostri corpi, prevalentemente quelle basse, pian piano risale e ci porterà verso il collasso al più presto, ma prima di collassare una nuova puntata di Gironimo. Ho imparato il nome di questo podcast. Eh sì, alla fine ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta, dai. Che è il podcast di Al Vento in collaborazione con Bidon e con il sostegno fondamentale di Shimano sul Giro d'Italia 2023, le cui voci sono sempre le stesse sin dall'inizio, tranne quella volta che è venuto Gino. Per il resto sono io, Filippo Cautz, io Michele Pelacci e io Leonardo Piccione. Siamo dove siamo? Siamo sulle montagne, montagne alte. Fredde. Siamo ad Auronzo di Cadore. Auronzo di Cadore, la sede del ritiro di una squadra di calcio di Serie A che adesso non ricordo. La Lazio, direi. Per tanti anni, non so se ancora ci vengono, intanto ci siamo noi. Siamo Pensavo all'interno. La Longobarda ad Auronzo. Sì, tra l'altro ringrazio il mio amico Onga che mi ha fatto venire in mente che si potrebbe fare una tappa da Auronzo a Canazei, e non è nemmeno così lontana, sarebbe una tappa bellissima, ma questo è un gioco dei Giri d'Italia di qualche anno fa e non è quello del Giro d'Italia di quest'anno, registrazione che si svolge all'hotel Albergo Miravalle. Albergo Miravalle, stanza numero 26, a Nanninella. Sì, diciamolo, c'è sempre l'ipotesi cornucopistica. Ah, certo, poi sai che il 26 è il mio numero preferito? Vedi, allora ho fatto bene a citarti anche la smorfia. Perché, scusa? Perché io sono nato il 13, quindi che è un po' la metà, poi è un numero che è ritornato... Sì, no, è precisamente la metà, anzi, proprio in modo matematico preciso. Però è tornato tanto nella mia vita il 26, l'ho un po' adottato a numero fortunato anche. Bello adottare i numeri nella propria vita, mi sembra una buona cosa da fare di tanto in tanto, ma... Oscar Riesebeck era il 26 di questo Giro d'Italia, è tornato a casa. Per lui non è stato un numero fortunato. È un po' la metà della fortuna, forse. Anche la per sfortuna lui. È la metà della fortuna, questa sì, è la sì. Saggezza con cui vi lasciamo. Grazie mille e buonanotte. Abbiamo concluso senza aver detto una parola della tappa, diciamola. Dai, diciamo qualcosina perché è successo un po', forse non tutto. Anzi, il giro non si è chiuso, è più aperto che mai. Facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto. Vi faccio una domanda subito. Dopo le tre croci e le tre cime. Sì, però ancora... ritmo, ritmo. Così. Dopo le tre croci e le tre cime, sono ancora in tre a giocarsi il giro o sono rimasti in due? Sono ancora in tre. Sono ancora in tre? Sono rimasti in due. E anch'io dico che sono rimasti in due. Però questo lo capiremo dopo e lo argomenteremo forse due dopo. 2 più 2 4 e 3 7. Esatto. Così, visto che è una puntata numerologica, 7 nella smorfia, il vaso di Creta. sì, è vero, è così. Ma Michele, senza indugiare oltre, riassumici un po' la tappa di oggi, com'è andata? Questo tappone dolomitico, la fuga è andata via via espandendosi, con coppie di corridori che si aggiungevano un po' in continuazione. Arrivano ad essere in tutto quasi una quindicina, tra cui G, Buitrago, Pronsky, che cito solo per Cautz, Kort, Conrad, Urbasse e Oldani. Prima del passo Campolongo attacca dal gruppo Ben Healy, ma Pinot e la FDG non ci stanno. Rimangono in pochi sul GPM delle Tre Croci e proprio nei pressi del lago di Misurina attacca chi meno te l'aspetti, ovvero Derek G. Non te lo aspettavi tu, perché non riponi la giusta fiducia in Derek G, ma prego, prosegui. Incredibile, anche oggi solo Buitrago riesce ad agguantarlo e a staccare il canadese nel tratto più duro di salita. Il gruppo dei migliori è intanto guidato dalla Ineos, con la solita menata infinita di Lawrence De Plus. Si staccano Dunbar e Almeida, sulla rampa finale è Thomas ad attaccare Roglic, staccandolo. Roglic però allo sprint finale ricuce il distacco e anzi dà 3 secondi al gallese. Insomma, tappa a Buitrago. E classifica generale da decidersi domani. E quindi classifica a decidersi domani. E a domani, buonanotte. No, non ancora. Leggiamo l'ordine d'arrivo, con calma. Ha vinto Santiago Buitrago con 51 secondi su Derek G. Terzo Magnus Cort, che ha battuto in volata Primoz Roglic e Geraint Thomas. Cort, che faceva parte della fuga, quindi non è partito dal gruppo della maglia rosa. Ha fatto un po'... l'Education First è fatta di corridori un po' casinisti in questo giro. Benili, almeno oggi, Benili a inizio tappa, cercando forse la maglia azzurra che è proprietà di Pinot, ha fatto innervosire la Groupama. E poi sulla linea d'arrivo Cort ha tolto gli abbuoni a Roglic. Una squadra di rompicoglioni, insomma. Sì, volevo dire, ho detto casinisti per essere un po' più urbano. Quindi quarto, Primoz Roglic, che ha rifilato la bellezza di 3 secondi a Geraint Thomas, che è arrivato a 1.49 da Santiago Buitrago. Sesto è arrivato João Almeida a 2.09 dal vincitore, ma soprattutto a 20 secondi da Thomas e a 23 da Roglic. Nel gruppettino di Almeida c'erano anche Damiano Caruso, settimo, e Timen Aresman, ottavo, compagno di squadra di Thomas. Nono, Thibaut Pinot, della Groupama, che oggi non era in fuga ma ha resistito molto bene con i migliori della classifica generale, a 2 minuti e 16 dal vincitore. Decimo Einer Rubio, che ha perso 2 minuti e 26 dal vincitore di tappa. Tra gli altri segnalo soltanto Eddie Dunbar, che oggi è andato piuttosto male, o comunque peggio dei giorni precedenti. Ha perso 3 minuti e 03 dal vincitore della tappa, ma soprattutto 1 minuto e 17 da Roglic e qualcosa di meno da Caruso, ma tanto basta per essere scavalcato in classifica generale proprio dal ragusano, da Damiano Caruso, che da oggi e da stasera è quarto in classifica. Ma la classifica generale la leggiamo insieme più avanti. Adesso, come al solito, parliamo un attimo del vincitore di tappa, perché Santiago Buitrago ha vinto la tappa regina del Giro, come anche l'anno scorso si era portato a casa una tappa molto importante del Giro d'Italia. Ce lo chiedevamo proprio l'altro giorno un po' dove fosse finito il Buitre in questo Giro d'Italia. Ci aspettavamo molto di più da lui, e soprattutto dopo l'ottima primavera, è arrivato anche a piazzarsi nelle grandi classiche e finalmente si fa vedere una bella zampata. Sono molto contento per lui, che era commosso, entusiasta di questa vittoria di tappa, meritatissima, perché si è giocato veramente le sue carte alla perfezione nella salita finale. È il primo non veneto che vince in Veneto da un po' di tempo, forse. Un po' di tempo è molto preciso come dato, grazie per questa specifica. Dalla fondazione del Veneto. È stato anche commosso, d'arrivo. Perfezionare la tua statistica, la lasciamo così in sospeso, va bene. Sì. Niente, vamos Colombia è il caso di dire, no? Visto che era diventato un po' anche uno dei motti di questa trasmissione, oggi finalmente possiamo dirlo. Era commosso, stavi dicendo? Sì, all'arrivo molto, no? Si è sentito chiamato in causa, secondo me, perché, come dire, ha parlato parecchio dei sacrifici che ha fatto, delle cose che ha vissuto in Colombia. Lui vive in Andorra, ci ha detto in conferenza stampa, e possiamo immaginare che per lui sia stato difficile, no? Ha detto che ha molti amici ad Andorra, ma a casa sua è in Colombia, lui piace star lì. L'anno scorso mi disse che, proprio in occasione della tappa che vinse il Menador, che lui come passatempo ha quello di guidare la macchina e girare per la Colombia, gli piace visitare i posti a casa sua. Sì, Santiago Buitrago, che comunque viene da Bogotà, Bogotà che deriva dalla parola indigena Bacatà, che potrebbe essere veneto, no? Bacatà. Anche un po' bacalà, se vogliamo. No, volevo in qualche modo potremmo ricondurlo al Veneto. Alla lontana. Volevo tornare a Buitrago, che guida la sua automobile per le strade di Bogotà, perché ci ha scritto Gian Pietro Miscione, un nostro ascoltatore e lettore che vive a Bogotà, e si è ricordato di quell'aneddoto, di quell'intervista dell'anno scorso, e ci ha detto: potreste chiedere a Buitrago se guidare a Bogotà gli ha insegnato a rimanere calmo nelle situazioni di stress? Noi non gliel'abbiamo chiesto, perché abbiamo letto la richiesta di Gian Pietro dopo la conferenza stampa, però quello che posso dire a Gian Pietro e a tutti voi è che vorrei personalmente che Santiago Buitrago mi leggesse qualcosa la sera prima di andare a dormire, perché ha questo modo di parlare così calmo e rilassato e sereno. Non so se gli deriva dal guidare a Bogotà o da che cosa, ma è una delle persone che trasmette più tranquillità che abbia mai conosciuto, almeno nel Giro d'Italia. È arrivato molto placido, in effetti, in sala stampa, in conferenza, nel track, e ha detto una cosa che mi sono segnata proprio così come l'ha detta. Ha detto: Sono tante cose che ti restringi e vincere è il pago migliore per questi sacrifici. Sì, è il modo migliore per ripagare questi sacrifici. È verissimo, volevo chiederti, Michele Pelacci, quando finisci di bere, tu ci sei mai stato a Bogotà? 3 volte. Ok, niente, lo volevo fare perché così ho citato per la seconda volta Lino Banfi in questo avvio di puntata e la cosa mi rende molto orgoglioso. Sì, citazione molto alta questa su di Bogotà e Lino Banfi, ma volevo dire una cosa in più su Buitrago, sul suo giro, perché lui era venuto qui per fare classifica generale. Mi ha fatto questo pensare. Non si è ben capito. Cioè, è quello che tutti noi pensavamo. Da quello che ci ha detto lui sembra molto diverso. Sì, è un po' più sfumata la sua versione. Però mi ha fatto pensare il suo giro adesso, dopo questa vittoria, a quello in parallelo e opposto per certi versi di Kemna. Anche lui protagonista l'anno scorso, vincitore di tappa. Anche lui quest'anno ha provato a fare classifica generale. Non è riuscito, cioè è ottavo adesso in classifica generale, ma non si è mai visto in questo giro. Quindi complessivamente, non lo so, forse Buitrago è riuscito a ovviare o a trovare una reazione al suo parziale, se vogliamo, fallimento in quanto curatore di classifica generale, vincendo una tappa. Una cosa che al Kemna un po' triste di questo giro non è riuscita. Quindi tornano a casa, uno con una top 10 probabilmente, Kemna in classifica generale, l'altro fuori dalla top 10 ma con una vittoria di tappa. Secondo me complessivamente il giro di Buitrago è molto più soddisfacente di quello di Kemna. Sicuramente, tra l'altro in un giro anche mediamente positivo per la Bahrain, mentre Kemna si porta appresso un giro che ne parlavamo ieri, della Bora, in cui ci sono state quelle due tappe di Dance che salvato, riscattano completamente un giro, in cui la Bora invece, tra sfortune e prestazioni deludenti, non è stata esattamente Così. La squadra di riferimento di questo giro. Volevo dire vincente, vincitrice uscente. Tutto questo per dire che sono dispiaciuto dal giro di Kemna, perché è un corridore che mi piace tanto, ma speriamo che torni a farci divertire. Santiago Buitrago, che per alcuni chilometri verso sull'ultima salita aveva nel mirino Derek G, ce l'aveva lì a pochi metri, ma non l'ha mai... Nel binocolo, potremmo dire, per restare sempre in tema. questa è giusta. Non l'ha raggiunto fino al momento, ha ritenuto guidato dall'ammiraglia, dal sapiente Franco Pellizzotti, quando è arrivato il momento poi di raggiungerlo, di fare l'affondo decisivo e scattare. Quel momento Buitrago l'ha chiamato il momento di darlo tutto. Il momento di darlo tutto. E lì l'ha dato tutto e ha scavalcato abbastanza agevolmente un Derek G per il quale io sinceramente non ho più parole. Cioè, aiutatemi voi perché io non so che cosa aggiungere. Oggi non me l'aspettavo nella fuga di nuovo, e non solo era lì a far presenza. È partito sull'ultima salita all'attacco sulle pendenze delle Tre Cime di Lavaredo ed è arrivato secondo un'altra volta. È arrivato secondo per la quarta volta in questo giro. Allora ti do questa statistica, l'ha mandata al nostro amico Davide nel gruppo Telegram. Fossombrone secondo, Viareggio secondo, Cassano Magnago secondo, Tre Cime di Lavaredo secondo, classifica degli scalatori secondo, classifica punti secondo, classifica generale 22esimo, 2-2. E sì, è sempre lì, come osservava Alessandro sempre nel gruppo Telegram. Meriterebbe che si istituisse nottetempo la maglia della combinata, perché sarebbe sua a mani basse. A proposito di multipli di due, ha fatto 4 volte secondo e 2 volte quarto. Ho già mal di testa. E l'altra cosa che, scusami, chiudo questo siparietto del gruppo Telegram, che nessuno aveva fatto notare fino ad oggi, era Gironimo. Caspita, dovremmo cambiare il titolo di questo podcast e io approvo la mozione. Io ho fatto un po' di G-watching all'arrivo, nel senso che mi sono piazzato a vedere le sue reazioni, perché mi immaginavo sarebbe stato complicato per lui accettare ancora una volta il secondo posto. E quindi forse avete visto anche delle foto in giro, si è seduto per terra lì, ha avuto bisogno del suo tempo anche per rimuginare sul nuovo secondo posto. Non ho voluto fargli delle domande, perché poi l'ha intervistato la TV, una TV internazionale, non ricordo nemmeno quale. Lui stava quasi tremando per il freddo, e sinceramente credo che non vedesse l'ora di scendere, perché poi oggi i corridori dovevano scendere in bicicletta per alcuni chilometri, quindi avevano al collo un fischietto che gli veniva dato dai massaggiatori, da un massaggiatore, e gli toccava dopo essere saliti anche scendere per qualche chilometro fino ai bus. G è sicuramente l'MVP di questo Giro d'Italia. Ora non siamo già in fase di commenti definitivi, però penso che questo si possa già dire, ed è un rookie che è MVP, cioè un esordiente, perché lui esordisce al giro nonostante abbia 25 anni, quindi non è proprio un bimbo. Questa cosa del rookie che è l'MVP della stagione, per esempio nella NBA, è successa solo due volte nella storia, e una delle due volte era Wilt Chamberlain, il vincitore, che è stato uno dei giocatori più forti della storia della pallacanestro. L'altra, Oscar Robertson o Kareem Abdul-Jabbar? No, qualcuno che l'ho cercato ma non lo conoscevo, okay. E quindi l'ho già dimenticato. Però il primo a vincere rookie, a essere l'MVP della stagione, è stato Wilt Chamberlain. Quindi possiamo dire tranquillamente che Derek G è uno dei ciclisti più forti della storia del ciclismo. No, però in prospettiva... Ora non so nemmeno dire cosa potrebbe diventare G, perché che tipo di corridore è? Un fuggitivo, è uno scalatore, è un passista? È anche difficile da collocare, perché io una prestazione del genere in una tappa così, con queste salite, non me la sarei aspettata. Invece lui va in montagna fortissimo. È quasi 20 kg più pesante di Buitrago e ha perso oggi, perché è arrivato quasi un minuto dopo Buitrago. Però si è difeso benissimo, ancora ha fatto 7 fughe in questo Giro d'Italia, un numero spropositato. Io invece ho parlato con un compagno di Frigo all'arrivo. Con un compagno di G che si chiama Frigo. Bravo, grazie. Ma perché condividono il frigo, per cui è anche un compagno di Frigo di G. Quindi ti riferisci a Marco Frigo, esatto. Giusto? E allora ascoltiamo quello che ti ha detto, perché io ancora non lo so. Sei vestito, ha messo la felpetta, avrai mica freddo. No, dai, adesso penso ad andare al bus a fare una bella doccia, va bene così. Doccia calda. Una doccia calda, sì, Hai visto anche oggi sul finale delle tre cime, le ultime 2-3 km, tantissime scritte sull'asfalto, frigo. Il tuo fan club fin qua è arrivato? Ah beh, è il minimo per loro arrivare fin qua, sono attrezzatissimi e sono contento, mi fa molto piacere che ci siano tanti fan per me, dai, molto piacere. Scusa, chiaricilo una volta per tutte, a Bassano sei fermato, cosa hai bevuto? Un prosecchino, era d'obbligo. E niente, e tra l'altro è mia mamma che mi ha istigato a bere, quindi mi ha stupito lei. Grande, grazie mille, gentilissimo, ciao. Tutti avremo bisogno di una mamma come la mamma di Frigo, che ci allunga un prosecco in ogni occasione utile. Fortunatamente oggi ci hanno allungato da bere al quartier tappa, un po' meno all'arrivo, ma rimedieremo in futuro. All'arrivo però sono state allungate borracce, barrette, caramelle, un sacco di cose. Anche panini, ho visto un paninazzo che ha mangiato Mollema con prosciutto, mozzarella e pomodoro, se l'è divorato in 2 minuti e mezzo. E cos'altro? No, perché l'arrivo oggi non era in realtà in cima, cioè la salita continuava dopo la linea d'arrivo. I corridori arrivavano talmente stanchi, almeno alcuni di loro, quelli che sono arrivati dopo i migliori, che avevano bisogno di essere spinti, quindi c'erano questi massaggiatori che spingevano i corridori oltre la linea d'arrivo, perché la salita non era finita, finché poi trovavano un posto accanto alle transenne per fermarsi e rifocillarsi, quindi con panini, caramelle, bibite gassate e così via. E molti corridori, tra l'altro, sono arrivati con le premiazioni in corso, perché oggi poi il palco, il podio, era a ridosso delle transenne, quindi c'era questo effetto un po', come dire, non voglio dire distopico, però abbastanza peculiare, che arrivavano ancora corridori che stavano finendo la loro gara mentre altri erano già sul palco a ricevere fiori, a festeggiare, a stappare bottiglie di spumante mentre i loro colleghi ancora faticavano sui pedali. Insomma, succede anche questo nelle tappe di montagna. Qualcuno sarà arrivato anche quando sparano i coriandoli. Quelli della maglia rosa. Che ricordiamo che in inglese si dice confetti, per sparare parole, sì, a caso. Sì. Il giorno gli inglesi hanno detto: scegliamo una parola in italiano, ad cazzum, usiamola per definire i coriandoli. Sì, ma stiamo sul Giro d'Italia, non è il Giro di Gran Bretagna. Come anche, ma a questo punto, visto che abbiamo aperto la parentesi, loro chiamano gondola le cabinovie o le ovovie, non so come si chiama. Le funivie. Tutte quella categoria di oggetti in inglese sono gondola. Che... Vabbè, mi fa sorridere. Vabbè, salutiamo il popolo della Gran Bretagna. Che potrebbe a breve vincere un Giro d'Italia, tra l'altro. Potrebbe vincere un Giro d'Italia, anche se non so. Sono molto ignorante. Il Galles com'è? È Gran Bretagna, Regno Unito. Però è fedele alla corona. Cioè, non è tipo gli scozzesi che sono. Che ce non l'hanno sono, un no, po' non con, sono con la corona. Che io sappia. Poi non c'è sempre, ovviamente, tanto orgoglio della nazione gallese, come di tutte le altre, ma. Mi sa che stiamo andando oltre il seminario, come dicono alcuni, fuori dal seminario. direi di tornare agli arrivi che abbiamo visto in cima. Arrivi all'arrivo, e tra gli arrivi all'arrivo abbiamo fermato, visto che ci aveva fatto la presentazione di tappa, abbiamo fatto prima e dopo le parole di Alessandro De Marchi sulle Tre Cime di Lavaredo. No, mi chiedevo, De, ma le Tre Cime di Lavaredo dicevi bellissime, adesso, dire, adesso cosa potrei dici? Potrei cambiare idea, eh? È diventata dura questa. Specialmente, sì, l'ultimo pezzo davvero. Però l'abbiamo fatta, dai. C'erano le caramelle gommose ad aspettarti all'arrivo. Sì, io preferivo un panino con la salsiccia, però. Il rifugio ce l'ha. No, il rifugio è troppo in alto in questo momento. Poi se lo sa Andrea che avevi le caramelle gommose diventa geloso. Fatte. Non glielo diciamo. No, assolutamente. Ma invece adesso come funziona? Col suo fischietto al collo? E qualche bestemmia poi scende, visto che una roba che non mi è piaciuta è il pubblico che dopo 10 minuti che erano passati i primi iniziavano a scendere. Ho dovuto fare letteralmente lo slalom tra gente che scendeva in bicicletta. Una roba che non mi è piaciuta molto. Anche perché c'è tanta di quella gente che deve arrivare ancora. Dai, adesso si fischia. Direi che il fischio di De Marchi segna anche la fine di questa prima parte della discussione di tappa relativa ai fuggitivi e l'inizio del secondo tempo dedicato agli uomini di classifica. E non possiamo non cominciare con la classifica generale, la nuova classifica generale che vede sempre Geraint Thomas in maglia rosa con 26 secondi, quindi 3 in meno rispetto a ieri, di vantaggio su Primož Roglič. Terzo continua a essere João Almeida, ma il suo svantaggio è salito ed è adesso a ridosso del minuto, 59 secondi di svantaggio per Almeida da Thomas. Quarto è Damiano Caruso, che come dicevamo guadagna una posizione e ha 4 minuti e 11 di ritardo da Thomas. E quinto scende di una posizione Eddie Dunbar con 4 minuti e 53. Sesto sale ancora una volta, ancora di una posizione, Thibaut Pinot, che pian piano sta guadagnando posizioni, adesso è sesto a 5 minuti e 10. Settimo Timen Arensban, anche lui in salita. Ottavo Lennart Kemna, che invece scende. Nono Andreas Leknesund e decimo Laurens De Plus, sempre della Ineos. La Ineos continua ad avere 3 uomini nella top 10 in questo Giro d'Italia fino a questo momento. Geraint Thomas contro Primož Roglič. Voi avete detto, no Michele, tu hai detto che secondo te Almeida è ancora della partita, io e Filippo siamo forse di un'opinione diversa, dici di più, perché nonostante i 20 secondi persi oggi e quelli persi ieri, Almeida secondo te può ancora vincere il Giro d'Italia? Perché l'ha spiegato Geraint Thomas, è ottimo João Almeida nel avere un ritmo, fare un tipo di velocità e tenerla per tutta quanta una salita o come domani una cronometro, no? Per cui se domani la velocità di Almeida risultasse migliore di quella degli altri due, e può essere perché Almeida va molto forte a cronometro, va forte anche in salita, potrebbe essere, magari appunto non vincerà, ma potrebbe... Però un minuto gli deve dare. Potrebbe scavalcare uno dei due, perlomeno, no? Per cui... Questa già è un'osservazione che non condivido, ma non facciamo pronostici adesso, però già cambia, se mi dici che fosse per il secondo posto già diventa più plausibile. Sì, io invece ho detto che secondo me la lotta è un po' ristretta ai primi due, basandomi su quello che abbiamo visto negli ultimi giorni e nella prospettiva che i valori domani non siano troppo, troppo diversi da quelli che abbiamo visto. E i valori visti negli ultimi due giorni in salita ci dicono che Thomas e Roglič sono più forti di Almeida. Hanno qualcosa in più, non troppo di più, ma qualcosa in più. Non so bene tra i due chi, secondo me Geraint Thomas è ancora quello che ha, come dire, una riserva in più rispetto a Roglič. Oggi l'abbiamo visto intanto con l'atteggiamento, però quello è una cosa mentale più che fisica o fisiologica. Ha controllato la corsa, ha messo la sua squadra davanti, ha trovato a due compagni un De Plus nello specifico straordinario, che secondo me se non ci fosse G forse potrebbe essere lui l'MVP di questo Giro d'Italia, e poi soprattutto ha attaccato. E un attacco di Geraint Thomas sulle rampe delle Tre Cime di Lavaredo non era facilmente preventivabile, ed è proprio un segnale, secondo me, macroscopico dello stato di forma, ripeto, mentale e fisico, che ha Geraint Thomas, atletico, come preferite, in questo Giro d'Italia. Lui ha un livello altissimo, superiore a quello di Primož Roglič. Sì, di nuovo molto rilassato, anche in conferenza stampa. Quando è partito per cui gli ultimi 300 metri, forse neanche mezzo chilometro, ha detto di aver pensato: oh jeez, è una lunga distanza, 300 metri, con quella pendenza e a quella altitudine, no? Ma chi è oh jeez? Penso sia Jesus abbreviato. Ma oggi non ha fatto la sua risata, ormai il suo, come dire, no. La sua tipica risata, no? Ma poi faccela riascoltare un attimo. Tipo, ha, ha, ha. Ok, grazie. È questa. È l'accento gallese, è così. Sì, io ho studiato per anni. Gino mi ha detto il che... Il gallese. Gino mi ha detto che dovrei studiare qualcosa di più del Galles. Derek Gino? Esattamente. Proprio lui. Sì, io vorrei sottolineare solo una cosa, poi adesso probabilmente si compenetrano un po' il discorso sulla generale col discorso sulla tappa di domani, è inevitabile visto che ne manca una di tappa decisiva, per cui c'è poco da girarci attorno. Rispetto a quanto diceva Leonardo, diceva Thomas è sicuramente il più forte dal punto di vista mentale, sulle gambe un po' boh, no? Sulle gambe forse no, sono ma forse vicini, sì. Sono molto più vicini, ravvicinati come forze dal punto di vista delle gambe che da quello mentale. Ecco, io penso che arrivati a questo punto con una sola tappa davanti e per di più una cronometro che ci si gioca da soli, l'unico elemento che può decidere il Giro d'Italia è la testa. Perché la benzina è finita per tutti, le gambe sono in croce per tutti quanti. Adesso per vincere il Giro d'Italia bisogna a trovare la forza mentale per resistere al dolore ancora quei pochi chilometri che mancano e basta, è solo con la testa che si vince il Giro d'Italia da qui in avanti ovvero da qui alle prossime meno di 24 ore, sì, ormai meno, non so che ora finiamo di registrare, forse diventano diventano le prossime 2 ore, ma vedremo. E da questo punto di vista anch'io oggi ho visto, l'ho proprio ravvisata questa superiorità mentale di Thomas. Io salendo dicevo questo è proprio un finale tagliato per Roglic, se la tattica è quella che ci aspettiamo, ovvero che i migliori stanno tutti insieme, grandi ritmo dei gregari e poi attacchi negli ultimissimi chilometri, è un arrivo cucito su Roglic. Roglic ha provato, Thomas non si è distratto un secondo, non si è rilassato un secondo e per l'ennesima volta ci ha fatto vedere come sul bondone e come ieri La precisione millimetrica nello scegliere il momento in cui forzare il passo. Stavolta Roglic poi gli è rientrato, ma gli è rientrato veramente alla fine. Ecco, proprio questa è una domanda per la quale chiedo una risposta secca. Quei 3 secondi che poi Roglic ha guadagnato con lo sprint suo, proprio marchio di fabbrica, possono essere un segnale positivo per lui riguardo domani, o è solo perché lui, sappiamo che un arrivo del genere dà secondi a chiunque su questo pianeta? Non lo so, secondo me sì, possono esserlo, però l'altro segnale è che Roglic ci ha provato oggi, ci ha provato con decisione e non ha raccolto niente se non quei 3 secondi in una dinamica in cui nemmeno ci stava provando. Ci ha provato con decisione. Ci ha provato con gran decisione, okay. Oggi. Io non sono del tutto convinto di questo, conservo l'ipotesi che possa essersi risparmiato Roglic un pochino oggi in visione, in prospettiva della tappa di domani, perché ha fatto un attacco, due accelerazioni, ma non erano a fondi convinti secondo me, però ovviamente ci basiamo su delle impressioni che molto probabilmente sono sbagliate. Sì, indubbiamente su quei 3 secondi qualcuno in conferenza stampa l'ha chiesto a Thomas, se non sbaglio a Ribas di Marca. Gli ha chiesto se domani perderai il giro per i 3 secondi che hai perso in questa volata, come reagirai? E lui aveva detto, in ogni caso avrò perso il giro, non so, certo quei 3 secondi che cambiano qualcosa, una volta che l'ha perso. Sì, è così. Quindi Thomas e Roglic uguali e diversi, perché poi hanno tutto di diverso nello stile, nella pedalata, no? Roglic che va su con questo rapporto leggero, sai che Thomas cambiato... un po' più pesante. Sì, molto, si vedeva anche l'arrivo di ieri. Questo non è, secondo me, sintomo di stato di forma, perché proprio pedalano in modo diverso. Ma Roglic oggi ha cambiato bici. Sul finale ha usato un monocorona 40-44. Magari la userà anche domani. Origliavo... Domani tutti cambieranno bici, almeno sì. Gli uomini di classifica prima della salita. Origliavo un'intervista a Sepp Kuss che diceva che questa bici che ha usato con rapporti quasi da gravel, Roglic potrebbe essere quella che userà anche domani. Per cui ha fatto un test, diciamo, a caldo Roglic sulla bici di domani. Beh, spero non si siano ridotti a provare la bici per domani nel corso della tappa con l'arrivo sulle 13 miglia di Lavaredo. Può darsi che invece la scelta del monocorona sia sempre legata a quel discorso lì del Galles, della regina, una corona sola sì, e rispettata. Sì, del re adesso. Del re, è vero che l'hanno cambiato recentemente. C'è stata questa sostituzione. Sì, sì. Non so dopo, si sa già dopo chi subentra. Penso di sì, però cioè, c'è già. Dovrebbe okay. esserci poi. Ne parliamo l'anno prossimo, faremo un podcast solo sulle teste sulle corone. Sì, ma sì. Chiudiamo la parte relativa a Thomas, perché voglio dire ancora una cosa in più su Lawrence de Plus, perché c'è stato a un certo punto questa specie di sprint o di duello rusticano tra de Plus e Dennis in testa al gruppo, perché abbiamo detto la Ineos è stata avanti quasi tutto il giorno. A un certo punto si era proposto Dennis davanti al gruppo per accelerare in funzione di un attacco di Roglic sulla salita delle Tre Cime, e De Plus si è proprio opposto quasi fisicamente, cioè ha fatto uno sprint con Dennis per ritornare in testa al gruppo, e Dennis in conseguenza di questo uno contro uno si è staccato poco dopo. Anche De Plus si è staccato a causa dello sforzo di questo sprint, ma poi è riuscito di nuovo a rientrare e a lavorare ancora per Thomas. De Plus incredibile. Incredibile anche oggi, è rientrato nel piccolo tratto in falso piano in prossimità del casello, che Filippo ormai adora, vero il casello? Adoro. Ho cercato tutto il tempo un negozio di souvenir per prendere un poster di questo casello da mettere in camera. Ecco, Geraint Thomas deve migliorare però nel conoscere l'età dei suoi colleghi, perché ha detto che avrà circa 23 anni De Plus, può ancora migliorare, invece il 4 settembre fa 28 anni. E beh, ciò non toglie che può ancora migliorare. Certo, De Plus, ho un'ultima cosa su di lui, perché all'arrivo volevo chiedergli del suo grande aiuto, no? Che ha dato a Geraint Thomas. Eravamo io e Renat Schotte di Sporza a intervistarlo, quindi io di fronte a Renat Ubi Maior, ecco. Poi gli ho detto, Lawrence, posso farti anch'io qualche domanda in inglese? E lui fa, no, sono troppo stanco, non ho più energie. Scusa, ciao. Ci manca che non fosse stanco. Si era appena fatto. Scusa se preferisce Geraint Thomas a Michele Pelacci. O Renat. Ma più a Geraint Thomas. Più Geraint Thomas, sì. Chissà se dopo sì. quel siparietto, quel duello, Dennis l'ha minacciato. L'ha minacciato? Ah, no. Questa Pelacci non l'ha capita. No, è impossibile. Lasciamo perdere. Ma e su Almeida non diciamo niente. Almeida, solita difesa strenua, su ancora una volta 20 secondi. Su Almeida potremmo non dire mai niente, nel senso che è Almeida, no, fa quella cosa perché lì, fa l'Almeida e anche oggi ha almeidato. Sì, però è sempre ammirevole. È focussato, sicuramente è focussato. E domani ha bisogno di una cronometro alla Pogacar sulla planche de Belfils, quindi quella performance fuori dal mondo che potrebbe anche tirar fuori, però allo stesso tempo deve sperare che tutti e due quelli che lo precedano abbiano una giornata alla Roglic sulla planche de Belfils. Roglic potrebbe averla perché appunto c'è un precedente. Beh, Roglic domani avrà una giornata alla Roglic sicuramente. Ma quale Roglic? Quello della planche? Non o so, però credo che domani Roglic sarà Roglic. Sarà Roglic, sì. A meno può che darsi, non si se poi ci sono degli scambi, magari la UAE scambia, mette Pogacar al posto di Almeida domani. Non se ne accorge nessuno. Quindi non saprei, secondo me il posto sul podio, vabbè, almeno quello è assicurato, e mi sembra che sia il primo podio in un grande giro per João Almeida, quindi siamo sulla strada per un ottimo risultato comunque per lui. Indubbiamente il vantaggio è veramente ampio per poterlo gestire, tra virgolette, domani, poi domani nessuno si gestirà, tutti andranno a tutta, però insomma siamo più di 3 minuti di vantaggio sulla quarta posizione che, come abbiamo detto, è cambiata quest'oggi. Perché Damiano Caruso ha tenuto duro, ha fatto un'ottima corsa. L'avete sentito in apertura di puntata, darci l'avete sentito in apertura di puntata, non era all'arrivo questo benvenuto, risaliva quando lo intervistammo qualche tempo fa. Quest'oggi invece lo abbiamo fermato all'arrivo, noi e tanti altri, per cui sentirete anche qualche altra voce, un'altra voce almeno, porre delle domande a Damiano Caruso, che da oggi è nuovamente al quarto posto. Giacca arriva imbottita. Sentivo che sull'ultima ascesa che avevo buone sensazioni, poi quando hanno cominciato a forzare ho visto quando è partito Roglic, chiaramente non potevo seguirlo, e però poi ho detto no, il mio passo è buono, continuo riesco a ritornare sotto e quindi, e però poi mi sono girato dietro e ho detto bene, dietro si è fatto il vuoto, quindi sì. Oggi finalmente una giornata anche per me buona. Che passo faceva Resman? Passo, non posso dirlo in televisione, non si può dire. Si può dire tutto. Passo bastardo. E, sì, chiaramente uno cerca, vorrebbe provare ad attaccare tutti, ma quando c'hai un Aresman e un De Plus che tirano così forte, dove vai? Giacca imbottita, non so se il quarto posto l'ha come dire, blindato, perché è ancora vicino Dunbar, che si trova a 42 secondi di distanza, però l'ho visto molto ottimista sull'idea di difenderlo questo quarto posto. E sì, sì. Credo che ne abbia le carte in regola per farlo, e credo che per un corridore come Caruso, arrivato a questo giro a fari abbastanza spenti, probabilmente senza nemmeno l'intenzione di fare davvero l'uomo di classifica, sia un risultato di altissimo livello. Sì, sì, e poi Caruso è dell'87, che è stata un'annata molto molto buona, come voi saprete tutti quanti. Penso anche per quanto riguarda i trequartisti francesi. Perché? L'87, Nasri, Ben Arfa, mi sembra sia tutti 87. Tutti 87, vabbè. Sì, sì. Anche Messi, per esempio, nomi di grande successo. Sì, hai citato. Potevi, proprio... potevi citare Lionel Messi. No. E hai citato Ben Arfa. Va bene. Vabbè, vabbè. Le strade non dimenticano, ma vediamo se dimenticheremo anche il tuo incontro con uno dei gregari di Primoz Roglič. Speriamo di no, perché non ho ancora sentito questa intervista che tu hai fatto con Tom Glogg, inglese, londinese, della Jumbo-Visma, ragazzo del 2001, molto giovane, chiamato all'ultimo momento a far parte della squadra che sta aiutando Roglic, sta aiutando per quel che può. Questo ragazzo oggi è stato forse il primo della Jumbo a staccarsi. Però tu ci hai parlato a lungo o comunque approfonditamente, e ascoltiamo quello che ti ha detto Tom Glogg. Tom, first question, pretty easy. Name, surname, team. Name or name, team. You say your name, your surname, and your. Sorry, I'm very slow. I'm Tom Glogg and I ride for Jumbo-Visma. You've been asked a lot about your late call to come to the Giro, yeah. But how was the race so far for you? Yeah, it's been a race of ups and downs. Mainly quite a lot of downs, to be honest. I started and I was obviously kind of working my way into the race. I was more or less the worst rider in the race coming in, just because I was unprepared. And then I came round and was getting better and better. And actually, the day that was shortened and the day before, I was feeling quite good. And then after that, I got pretty ill on the really rainy day. We've had quite a few, but another really rainy day, and then I've been suffering ever since. So that's been my Giro so far. It's full of tifosi screaming around here. Yeah. Did you hear chants about your name or not at all? There's a few Brits and flags of different things, but actually most of the time it's quite hard to hear a chant about me because everyone chants Thomas, but for Geraint, not me. So it's a funny one. That's why I asked, because yesterday on the Bondone climb, I saw a big sign with a Union Jack. It said, yeah. Glogg Trotter. Did you see it? Yeah, I did. I actually spoke to the guys, and they're just some guys from London who read the story and thought that was quite cool and put it on a flag, and I really appreciate it. It's nice to see that going up a climb, so yeah. As your role as a youngster with Team Jumbo-Visma, which is so good on the GC, what's your role day by day? Well, if I'm going really well, it would be my normal level would be to support Primoz in the mountains, but the way I'm going at the moment, I'm just struggling to finish, so unfortunately I'm not contributing as much as I'd like to at the moment, but yeah. Thank you so much for your time, mate. Thank you very much. Have a good one. Ci ha messo un po' a capire che doveva presentarsi Glogg, anche con un sorriso ci ha poi scherzato su. Gli ho chiesto di come sta andando la sua corsa e ha risposto che finora è stato un po' alti e bassi il suo giro, soprattutto bassi, ad essere onesto. Sapevo di essere forse il peggior corridore di tutto il giro, anche perché sono arrivato impreparato. Poi la mia condizione è migliorata, migliorava sempre di più. La tappa che è stata accorciata mi sentivo quasi bene. Poi mi sono ammalato e nella tappa molto piovosa, penso si riferisse a quella del Sempione, ho sofferto molto. C'era pieno di tifosi urlanti lì a fianco. quando ho fatto l'intervista. Quindi gli ho chiesto se ha sentito o meno il suo nome dai tifosi. E gli risponde che sì, ha visto molte bandiere britanniche e ha sentito qualcuno che urlava Thomas Thomas, ma per Geraint e non per lui. Quindi gli ho chiesto di una bandiera britannica che ho visto sul bondone con la scritta Globetrotters, ne ha parlato anche a Cycling Podcast. E mi dice che sì, l'ha vista, e ha parlato con quei ragazzi che esponevano la bandiera e gli hanno detto che sono anch'essi di Londra. Pensavano, lui pensa Tom, che fosse un'idea simpatica. Infine gli ho chiesto del suo ruolo come giovane, gregario in una squadra molto concentrata sulla classifica generale, e lui risponde che normalmente il suo ruolo, lui avrebbe anche sognato che il suo ruolo sarebbe stato quello di aiutare Roglic in montagna, ma ora che non sta bene deve solo pensare ad arrivare al traguardo e non può fare granché. Le stelle si raccontano. L'oroscopo di domani dal genius di Asterio Trefortuna. Per il giro, per la tappa, per la vita. Ariete, Toro, Gemelli. Uomo, wow, avete fatto già partire la base. Stavo un attimo distratto. Leone. Ho detto, ma fermate! Dove siamo arrivati? Bilancia. Allora, vai in palestra, amico della bilancia, e trova un'altra disciplina. Sta karate, sta il corso dalle 11 a mezzogiorno. Fai quello, fai karate. Scorpione. Le stelle non sanno più come te lo devono dire, Scorpione, eh? Non te lo sanno proprio più come dire. Eppure io sono veramente mortificato di fronte allo Scorpione. Va buono. Sagittario. Domani è bel tempo, Sagittario. Stai tranquillo, stai sereno. Capito, Sagittario? Capricorno. La soluzione a molti problemi, Capricorno, avviene a tavola. Ci siamo intesi? Acquario. Domani non andare in bicicletta, Acquario. Non importa che ce l'abbi di nuovo. Stattene a casa. Gioca a dama. Consiglio delle stelle. Pesci. C'è una lista che devi fare, pesci. La lista che devi fare è la lista dove scrivi. Punto 1, non faccio più liste. Punto 2, brucio le liste. Punto 3, basta liste. E non sta manco il consiglio del giorno. Lo dico io, il consiglio del giorno di oggi è... quanto è bello sotto il cielo delle stelle. Mi sa che accusano la terza settimana anche negli studios hollywoodiani dove viene realizzato questo. Ma oggi che era la puntata più importante, perché noi ci aspettavamo che ci desse delle indicazioni sulla cronometro. Qualcuno ha detto di non andare in bicicletta. All'acquario, che all'acquario, sono io. Sì, domani non andare in bicicletta, Leonardo. Non avevo in programma di andare in bicicletta verso il sacro monte di Lussari, proprio non mi passava nemmeno... per l'anticamera del cervello. Ma quanto è bello il cielo sotto le stelle. Mi spiace che sia arrivato mortificato all'ultima puntata del suo oroscopo, il nostro Asterio. Ma deve aver avuto uno screzio con la sua assistente. Non è affatto da escludere, visto. Vabbè, andiamo avanti, perché abbiamo due belle chiacchierate adesso che abbiamo fatto in questi giorni. Abbiamo, sì, tra l'altro, diciamo, oggi non siamo andati alla partenza perché la giornata era un po' complicata, per cui però ci siamo portati avanti. Ci siamo portati avanti col lavoro e abbiamo chiacchierato con due protagonisti a loro modo di queste tappe. Carlos Verona, della Movistar, protagonista oggi perché è stato in fuga, è stato tra i protagonisti della fuga buona, perché poi ha portato la vittoria di Santiago Buitrago. E poi con Charlie Quarterman, che avevamo già sentito in apertura di giro, l'inglese della Corratec che sta imparando l'italiano e che ieri è arrivato ultimo. Ve l'avevamo detto proprio in cronaca di tappa rispetto alla tappa di ieri. Ascoltiamo queste due chiacchierate in italiano entrambe, sono due ragazzi che non sono italiani ma lo parlano a loro modo, e ascoltiamo queste due chiacchierate una dopo l'altra, Verona e Quarterman. Buenos días, Carlos Verona. Buongiorno. Buongiorno. Parli italiano? Un po', sì. Un po'? Vuoi fare in italiano o in castellano? Se vuoi proviamo. Proviamo, ci piace in italiano. Mi sembra che lo parli già benissimo. No, benissimo, però capisco e già sai, lo spagnolo e lo italiano siamo vicini. Senti, io volevo parlare con te del Verona Blog. Sì. perché tu sei uno dei pochi corridori che raccontano tutto. Volevo sapere perché questa scelta, se ti piace, come trovi il tempo, l'energia per fare tutto questo. Bueno, penso che un po' la mia personalità, no? Alla fine sono una persona che mi piace parlare le cose, sempre trato di essere chiaro, e magari tante volte dicono cose che la gente non le piace, però è come lo penso e trato di fare il mio ragionamento. E sì, penso che se si parla del rispetto si può parlare di tutto, no? E il Verona Blog alla fine per me è una forma di escape, mi piace scrivere, penso che è una forma anche di interattuare con la gente, con il tifosi, e la verità è che è una cosa che faccio da che sono tornato professionista nel 2011 e aspetto farlo fino alla fine della mia carriera. Puoi fare un libro alla fine enorme. L'ho pensato tante volte. E anche con tutti questi Verona Blog, anche penso che un giorno, quando hanno passato tanto tempo, posso leggere cosa è successo nel passato e così ricordare un po' tutto. Ti piace anche leggere, oltre che scrivere? Sì, non tanto come... però sì, in questo giro mi sto leggendo un libro, precisamente di Tor, un paese piccolino vicino a Andorra, che nel passato ha avuto tanti successi con il contrabbando, non so come si dice. Okay. Sì che mi piace. Come si chiama il libro? Tor, la montagna maldita, è anche in catalan, non è neanche in spagnolo, il libro in catalan. La montagna maldita è un buon titolo maldita. Per il Giro d'Italia. Sì, potrebbe essere la storia di questa corsa. Dopo la vittoria di Einer. Sì. Hai scritto, il compagnerismo sta nella parte alta di mia scala de valores. Sì. Me lo spieghi, cosa vuol dire per te compagnerismo, che non so tradurlo in italiano, ma poi lo cerco. Compagnerismo è... lavorare insieme in gruppo, no? E per i tuoi compagni, non so come si dice in italiano la parola. Spirito di squadra? Sì, spirito di squadra, è un po' quello, no? Lo diceva in base alla decisione dell'altro giorno di fare la tappa più corta. Alla fine non è una cosa mia, io posso avere la mia opinione, però penso che siamo un gruppo, è importante la unità. E non so, penso alla fine il mio posto nel ciclismo, solo ho vinto una cosa in tutta la mia carriera, se sono qui e anche se penso che starei qualche anno in più, non è per vincere o per pensare in me, no? È più per pensare in altri, provare ad essere un buon compagno e sempre dare il 100% quando sono in corsa. Poi la storia di Bruno Armirail è anche una bella ispirazione per chi fa l'uomo di squadra, no? Sì, sempre, no? Alla fine io credo che il ciclismo sempre ci impara che sempre c'è l'opportunità per tutti, no? L'importante è essere lì, provare, fare lo meglio che puoi il tuo lavoro e sempre dopo, anche sei un uomo di squadra, sempre c'è il giorno che hai il tuo giorno. Il mio è arrivato l'anno scorso a Dauphiné e aspettiamo che arrivi un'altra volta presto, però se no non è una cosa che mi preoccupi tanto, sai? Alla fine sono felice di cui stanno il giro, può essere non vinto nessuna corsa, però io mi trovo felice con me stesso. Perché mi ricollego a un'altra cosa che hai scritto, che la peculiarità del ciclismo è che le cose possono cambiare quando non te lo aspetti, nel bene e nel male. Sì, il ciclismo è la vita, no? Però il ciclismo è vero che abbiamo un sport che, sai, qui all'aereo libero passano tante cose e quanto meno lo speri, tutto può cambiare, no? Allora sì che è una peculiarità che penso che per quello anche tutti che ci piace il ciclismo, ci piace questo sport. Grazie mille. Ultima cosa, qual è la cosa più bella del giro? Italia. Io sono Carlos Verona e sicuro che qualcuno dei miei antepassati, non so come si dice, però... Antenati erano di qua e per me questo paese è incredibilmente bello, tutto. La gente, tutto. Per me Italia è... Infatti io sono abitato a Lucca 6 mesi, è un posto dove vorrei tornare qualche volta. Grazie mille. Perfetto. Scusami per l'italiano, aspetto che hai capito un po' e ci vediamo. Grazie, buona giornata, buona tappa. Charlie Quarterman, buongiorno, come stai? Sto bene, sto un po' sono un po' stanco dopo ieri e gli ultimi giorni, ma va bene. Adesso sono concentrato per arrivare a Roma. Senti, è un incubo quando mi vedi perché devo farti le domande in italiano o sei contento un po' di parlare in italiano? Non so, preferisco parlare in francese o inglese perché posso dire quello che voglio, ma fa bene di provare un po' a imparare e Sei bravo, sei bravo. Grazie. Sei riuscito ad aprire Duolingo in questi giorni? Sì, sono ho fatto 202 giorni. Così adesso. Ok. Vabbè, solo tre giorni. Tre giorni. Allora posso chiederti di dirmi in italiano con una parola come definiresti le tue gambe in questo momento? Una parola? In una parola, un aggettivo. Non posso, non posso dire in una parola. Due anche. No, le gambe sono ancora buone e lo stomaco che va male. Ecco, ho cominciato a fare male, non so, 4-5 giorni fa. Non è facile di recuperare quando faccio 200 km tutti i giorni, ma... Oggi vediamo, sì, voglio solo, non posso fare niente con le salite oggi, quindi voglio arrivare a Roma e basta. Senti, tu vieni da Oxford, sì. Se il Giro d'Italia fosse una facoltà universitaria, che facoltà sarebbe, che materia sarebbe? Economia, studio economia in un'università in Francia adesso. Oxford è un po' più difficile, ma anche adesso studio in francese. No, non studi economia in un'università francese? Sì, no, okay. Quindi non è facile. A che anno sei? Primo. Primo anno? Sì, ma mi piace molto. Anche, non è facile durante il giro, ma quando non va bene sui bici posso pensare solo all'economia e sono più... La carriera è più stabile quando io so che avrò sempre questa cosa. E il Giro d'Italia che cosa ti ha insegnato finora? Che puoi sempre fare di più. Con la motivazione puoi sempre continuare, sempre. Anche quando vuoi niente, solo arrivare sul bus, puoi continuare a pedalare e... Hai bisogno solo di motivazioni. Un'ultima cosa, tu sei molto attivo su Twitter, sei anche molto divertente nei tuoi tweet. Mi aiuti a capire queste emoji che hai qui? Allora io vedo un formaggio. Formaggio, come si dice? In francese diciamo fondue. Sì. E vino e montagne. Cosa rappresentano per te queste cose? La mia regione in Francia, perché abbiamo le montagne. Penso che è un po' come in Italia nel nord-ovest, come il formaggio, come si dice, fonduta, sì. Fonduta, sì. Anche il vino, ski, tutte queste cose mi piacciono tanto. Quindi non è facile prima di giro perché devo perdere un po' di peso, sì, ma sì, mi piace l'altra vita dopo la bici. Qual è il tuo vino preferito? Quella è una buona domanda. Mi piace tanto il vino di Alsace. Sempre i vini francesi. Rossi. Mi scusi. Sì, ti perdono. Ma francese. Anche c'è un vino... le Beaujolais. Non so come si dice, ma in una regione in Francia. O Bordeaux. Questi vini qui. Il formaggio? Formaggio anche della regione Reblochon, non so se si conosce. Mangio tanto nell'inverno. Ma tu come sei finito in Francia da Oxford? Mia ragazza non viene dalla regione, ma quando avevo 5 anni ho cominciato con la famiglia di fare vacanze a un'ora di dove abito adesso. E lo stesso per la mia ragazza e ci siamo visti durante il Covid e abbiamo detto veniamo qui per abitare e così. Verrà a Roma lei l'ultimo giorno? Sì, viene. Come si chiama? Louise. E cosa mangerete quella sera a Roma? Non so perché ho mangiato troppo di riso e pasta. Veramente voglio ritornare a casa per mangiare tartiflette. Conosci tartiflette? Con le patate, formaggio, tutto. Ma non so, una pizza, burger, vado a mangiare tanto. Mi sembra un buon programma. Sì. Grazie Charlie, buona fine di giro, in bocca al lupo. Grazie, prego. E allora, Charlie Quarterman che dice grazie e prego, fa tutto da solo alla fine dell'intervista. Doveva dire anche scusi, tornerò. e ha un ottimo programma per la fine del giro che voi credo apprezzerete, ha detto mangiare tanto. Come no, ma io sto lievitando col cibo che stiamo mangiando, così meno male che stasera saltiamo la cena. L'obiettivo opposto a fine giro, di finalmente mangiare poco, meno e sano. Comunque Quarterman ieri è arrivato ultimo. Sì. Oggi c'è stata una bella lotta per l'ultimo posto, perché Alberto Dainese è arrivato ultimo a 44 minuti e 56 secondi e ha dato 7 secondi di distacco a Nicolas Dalla Valle, che è arrivato penultimo, e sono i due che si stanno giocando anche la maglia nera, per cui non so se c'è stata, se ci sono state delle scaramucce, fatto sta che ci sono ancora 3 minuti. E Nicolas Dalla Valle al momento, sì, la maglia nera. Ci sono domani ancora 3 minuti tra Dainese e Dalla Valle, per cui vedremo domani. Due comunque a partire, quindi sarà saranno una i primi sfida. Due, sì, sarà una sfida nella sfida, per una tappa nella tappa, una corsa nella corsa. Domani. E invece, una maglia nella maglia, anche avevo dimenticato. Guardando proprio la tappa di domani, direi di farcela introdurre da qualcuno che conosce la salita. Non sarà in bicicletta domani, sarà al seguito in ammiraglia dei suoi corridori. Sì, non ho idea non se ci sono le ammiraglie. Come funziona? È una domani? Bella domanda, non l'ho ancora capito. C'era un po' di confusione. Però al anche di questa strada ci parla una persona che ama molto il luogo di arrivo di domani ed è una sorta di infante del paese, ovvero il DS della Bora, Enrico Gasparotto. Per me sarà una giornata speciale per diversi motivi, perché al Monte Lussari mi portavano i miei genitori quando ero piccolo, quando facevamo le vacanze estive a Malborghetto, che è giusto ai piedi del Lussari, diciamo non lontano da dove ci sarà il cambio bici, e ci sono andato per tanti anni, quindi ritornare per me in un posto del genere con Giro d'Italia è ovviamente qualcosa di speciale. Sono riuscito quest'inverno a dicembre a portare i miei genitori, che non sono più giovani, hanno 80 anni, mia mamma non vede neanche troppo, però sono riuscito a portarli su per pranzare in cima al Monte Lussari lo scorso dicembre, con tutta la famiglia anche, c'era mia sorella, mia nipote, e queste sono cose che per me sono importanti, perché la famiglia è un valore assoluto. E il fatto di aver portato loro, di andarci adesso col Giro d'Italia, è qualcosa di fantastico. Chi ha voluto questa tappa, che Enzo Kainer, non c'è più, e abbiamo tutti sperato che potesse tenere duro fino al Monte Lussari per poter vedere tutto questo, e invece non c'è, e credo che gli siano fischiate le orecchie anche nella tomba, visto le polemiche inutili che sono state fatte fino adesso. Senti, alzando lo sguardo dalla strada, cos'è il bello del Monte Lussari, di quella zona? Perché è una zona impervia. Questa strada che faremo è una strada montana, che è stata asfaltata da poco, è stata asfaltata per l'evento, e finalmente il villaggio del Monte Lussari avrà un accesso a ambulanze, quindi l'hanno messo, diciamo, in sicurezza grazie al Giro d'Italia, perché è un paesino in cima a una montagna, una chiesetta, e dalla cima riesce a vedere le montagne di Slovenia e Austria, ed è parte della storia, diciamo, dell'Italia e di quello che le zone di confine hanno dovuto vivere negli anni con le guerre, quindi rimane un posto magico. Mi auguro solo che ci sia una bella giornata di sole, perché le immagini che ci saranno di quel posto saranno uniche e faranno il giro del mondo. Ultima cosa, hai detto che hai portato la famiglia a pranzo. Dove si pranza al Monte Lussari e cosa si mangia? A Hotel Rododendro, che alla fine è gestito da Gabriella Paruzzi, olimpionica di sci di fondo, e da suo marito, e penso che un buon piatto di frico va mangiato con una buona birra o un bicchiere, anzi meglio piuttosto che una birra, un bicchiere di Tokaj, di friulano. Super, grazie mille. Grazie a voi. Michele, invece, dal punto di vista più strettamente altimetrico o planimetrico, quello che vuoi, com'è la tappa di domani? È dura. Basta questo? È molto dura. Potrebbe bastare, ma se aggiungi due paroline siamo più felici. è una crono di 18,6 km da Tarvisio al Sacro Monte Lussari. Io sono già stato su in vacanza, in Polleggio, come diciamo noi emiliani. In bicicletta? No, no, ero con tanti amici, siamo andati su attraverso la cabinovia, che useremo anche domani, verosimilmente. La salita del Lussari è molto dura, soprattutto nella prima parte. Sono quasi 5 km al 15% di media, alcuni picchi massimi, per così dire, superano il 20%, tratti interi sono oltre il 18%, dopo spiana un po' presso un tornante e verso Sella Prajsnig, non so quale sia il nome, qui siamo anche al confine con la Slovenia e si fanno complicate le pronunce, la pendenza torna verso il 20% prima del finale. Una crono molto dura, da non sottovalutare, però c'è anche un inizio abbastanza piatto all'uscita di Tarvisio, 10 km abbastanza appunto pianeggianti, più da specialisti, ecco. Sì, non so, io ho l'altimetria davanti, non li definirei pianeggianti. Sicuramente non sono in salita, però il piattone domani non c'è mai. Sì, pronostici non ne ho ancora sentiti, però è vero che ne abbiamo parlato prima discutendo la classifica generale, però chi vince domani? Ecco, mettiamola così. Chi vince la tappa e chi sarà in maglia rosa a fine giornata? No, non ne ho idea. Non lo so proprio, ti posso dire che il buon Einer Rubio domani si prende uno sberlone di minuti. Povero Rubio, perché? Perché domani non è proprio la sua giornata. Però è uno scalatore, voglio dire. È uno scalatore, ma proprio non è un cronoman. Però magari domani ci stupisce, ha fatto un ottimo giro, per cui alla top 10 a portata di pedale. Perché per decimo cui... e De Plus è a 10 secondi su di lui, sì, in questo momento. Ma... le cose sono due. Diciamo così, comunque, domani vince la tappa, ti dico solo il vincitore, sì, di tappa, Tamen Arensman. Ecco, assolutamente interessante. Michele, tu? Com'è che era quella canzone di Elodie? Le cose sono due. Le cose sono due, canta lei, io, quindi mi stai dando la parola. O i valori sono talmente simili tra i big che domani non ci sono praticamente distacchi, perché sono tutti veramente al fondo delle loro energie, ed è possibile che poi si riveli un cronometro ininfluente per la classifica generale, oppure uno o due di essi, dei primi tre, hanno problemi, hanno una giornata negativa e la classifica può essere stravolta. Io non la immagino come un'ipotesi probabile, questa della rivoluzione in classifica generale. Secondo me la classifica resta più o meno quella che è, e Thomas è il favorito per vincere la tappa e il giro a questo punto, ancora una volta, chissà se prima o poi lo becco. Mi sarebbe piaciuto pronosticare Remco Evenepoel per domani, che peraltro io avrei pronosticato anche Tadej Pogacar per la tappa di domani, se vuoi. Io Merckx. Bravi, prendete in giro, bravi, vi sento. Domani è il giorno, non è stato oggi come dicevo pronostico, lo confermo per domani, però domani è il giorno che Roglic fa tappa e maglia. Ah, quindi vince il Giro d'Italia Primož Roglič secondo te? Interessante. No, tappa e maglia, poi a Roma tutto è da vedere. Cioè, quello è da vedere. Stanotte, tra l'altro, Roglic con la sua squadra dorme in Slovenia, a Kranjska Gora, e lui si è detto molto molto contento di questa cosa. Chissà che non subentri un aspetto psicologico. Domani sarà pieno di tifosi anche di Roglic, immagino, essendo appunto quasi al confine con la Slovenia. E spero, concludo, che sia una bella anche cronometro. Alcuni dei nostri amici di Shimano dormono in Slovenia. Sì. Così, posso, sì. Così li salutiamo e li ringraziamo sempre per il loro affetto, alcuni perché altri cominciano a partire verso Roma. Volevo dire che una cosa l'ho capita da ciò che diceva Lorenz De Plus a Renat Schotte, ed è stata Shimano. Davvero. Grazie Michele di questa osservazione. No, al di là di tutto, dei vincitori, dei vinti che ci saranno domani per forza, perché è l'ultima tappa che, insomma, che stabilisce la classifica generale, spero che sia bella, che sia un grande spettacolo, perché è questa tappa, lo spauracchio di questo cronometro che ha condizionato quello che abbiamo visto finora in questo Giro d'Italia, di bello, meno bello, divertente, meno divertente, però il pensiero di questo cronometro finale così impegnativa ha condizionato tante scelte tattiche dei protagonisti di questo Giro, quindi spero che veniamo ripagati dal punto di vista proprio dello spettacolo puro. Le cronometro possono esserlo e domani è l'occasione giusta per vedere uno spettacolo sportivo, paesaggistico, artistico e tutto quello che volete. Anche artistico. Certo. Sicuramente... No, dimmi Michele. forse anche musicale, non lo so, mettiamoci dentro, religioso, siamo su un monte sacro. Esatto, esatto, tutte queste, mi sento di escludere musicale, ma poi dopo di questo ne parliamo, spettacolo di pubblico sicuramente ne vedremo parecchio domani, non ho idea di come siano gli accessi al pubblico sulla salita, ma sono sicuro che ci sarà una marea di gente in festa, ce n'era anche quest'oggi alle Tre Cime di Lavaredo. E io ho fatto l'errore che avrò mal di gambe per settimane, però arrivato in cima mi sono lanciato nei prati innevati bagnandomi i piedi ed entrando in contatto con quella sostanza che amo poco, qual è la neve, e sono sceso fino a oltre l'ultimo chilometro e mezzo a chiacchierare un po', a fare un po' di incontri, e vi faccio sentire un mistone di voci e di incontri fatti vicino alla salita finale di oggi. Me lo racconti un attimo questo costume? Ah, sei cileno. Eres cileno? Sì. Vale, pues me cuentas quién eres, quién es ese tío que llevas contigo. Ah, es un alienígena que alguna vez lo compré para jugar en la casa, en fiestas. Lo llevé a San Juan, Argentina, ahora a comienzos de año, y ahora de vacaciones por acá en Italia, justo coincidió el Giro. Venimos algunos días y lo trajimos para que también alentara a los ciclistas, que es en definitiva los que hacen el mayor esfuerzo, uno solo los tiene que alentar. Tú te has traído desde Chile el alieno. ¿El alieno? Sí, sí, sí. ¿Por el avión? ¿O has venido con el UFO? No, él viene en el UFO. Vale. Y me deja tomar el avión a mí, porque no me puedo trasladar así en el UFO. ¿Y cómo habláis tú y el alieno? ¿De qué idioma? A través de la mente. ¿A través de la mente? Sí. Pues a ver si me dice algo. Ah, dice que está muy contento de estar en Italia, que el Giro ha sido una muy bonita experiencia para él, su primera vez, y que toda la gente alentando en todo a lo largo del recorrido, así que feliz. ¿Cómo te llamas? Álvaro Monares. ¿Y cómo se llama el alieno? No tiene nombre hoy en día porque no me lo ha dicho, nunca se lo he preguntado, como él me dice qué hacer, entonces todavía no llegamos a ese punto de tanta complicidad. Muchas gracias. De nada. Disfruta il giro. Sì, grazie, prego. Adesso l'ho riascoltato al volo, non sto a farvi la traduzione letterale di questo personaggio che sarà la terza, se non la quarta volta che vedo a questo Giro d'Italia, e una volta addirittura la tappa del Bondone, se non sbaglio. Lo abbiamo visto per ben due volte durante il percorso, si era spostato e niente, è un tizio cileno che gira con questo costume in cui lui è un alieno gonfiabile in cui lui spunta come se fosse in braccio all'alieno. Io pensavo almeno fosse così, anche lui ha iniziato dicendomi che era un travestimento che si è comprato per fare delle feste a casa sua, poi l'ha portato alla Vuelta a San Juan, poi è venuto in vacanza in Italia, guarda caso, durante il giro, e si è portato questo costume. Però il bello è che diceva che lo ha portato per incoraggiare i corridori, perché dice poi sono loro a fare la vera fatica e tutto quello che possiamo fare noi è incoraggiarli. E poi avrete sentito che abbiamo parlato un po' di mezzi di trasporto, insomma lui dice che sarebbe voluto, no, non dice che sarebbe voluto venire con l'UFO, ma insomma dice che l'alieno è volato fin qui con l'UFO, lui invece non ha la capacità di teletrasporto, per cui ha dovuto prendersi un biglietto d'aereo. Invece gli ho chiesto come comunicano e dice che è tutta una questione telepatica, infatti gli abbiamo fatto una domanda insieme, avrete sentito che ha fatto piru piru piru piru o una cosa simile, e quindi questo alieno è molto contento di essere al Giro d'Italia, il suo primo giro, è una bella esperienza, è molto felice. E il nostro amico cileno si chiama Alvaro, non ha mai chiesto il nome all'alieno perché non sono abbastanza in confidenza, dice che è l'alieno che gli dice cosa fare, ma insomma manca ancora quel livello di confidenza. Adesso qua sono arrivato all'ultimo chilometro, su per giù, la visuale è bellissima, peccato che vi è iniziato a cadere qualche goccia, ci dovrebbe essere un fuggi-fuggi generale, ma non c'è nessun posto dove fuggire, per cui nessuno fugge, giustamente. Però almeno sotto il gazebo c'è una persona col cappellino della Muretti Madness, incredibile. Ne hai fatta di strada. Sì. C'è una voce che riconosci da un podcast. Filippo di Bidone. Questo devi dimostrarmelo. Carta abbiamo identità. Cenato insieme a casa di Emilio Corradini nel 2019. Cazzo, questa è una dimostrazione. Questa non posso, mi devo arrendere. Via del Taglio a Modena e non ricordo la data precisa. Però. Menù della cena. Crescentine dette dai piangiani tigelle. Piangiani. Gli esseri di pianura. È uno sport diverso. Una specie di ciclocross in discesa. Grande, bici da corsa giù per i prati. Giù per i prati. Ma te la fai giù fino a Fondovalle per i prati. Là, la strada. Dici no alla strada. Dove c'è quel gazebo? Okay. E mi fermo che là ho lo zaino e tutto quanto. Va bene, buona discesa. Ciao, grazie. Ciao. Ho sudato 7 camicie. 7 non le ho portate, ho una maglietta, la t-shirt di Al Vento rossa. Voi ridete, voi siete venuti su in bicicletta, facile, eh? È mica tanto facile. No, in effetti non è facile. Avete sudato? Beh, anche con l'elettrica fai fatica. Avete sudato elettrico? Abbastanza. Grazie. Attenzione, attenzione a non prendere la scossa quando si suda elettrico. E adesso, così, il paesaggio sonoro è questa cosa qui. Ci tenevo a chiudere facendovi sentire il paesaggio sonoro del traguardo. Permettetemi quest'unica polemica. Oggi abbiamo due piccole note negative da fare di questo arrivo. Secondo me vale la pena farle. Una è quella che ci ha detto Alessandro De Marchi riguardo alle persone che si gettano in bicicletta in discesa subito dopo il passaggio dei primi, che effettivamente è una cosa che sconsigliamo a tutti quanti. Anzi, non sconsigliamo, non fatelo. E la seconda è che mi piacerebbe molto che alla fine di queste corse, soprattutto quando si arriva, oggi l'arrivo era magnifico, ne parlavamo scendendo, no? Era uno dei posti più belli in cui abbiamo mai visto arrivare una tappa del Giro d'Italia. Per me è personalmente forse il più bello. Forse il più bello, a questo paesaggio che ti abbracciava, ti soffocava quasi, era completamente maestoso. Perché lì in mezzo bisogna mettere della musica scadente e degli speaker che parlano a tutto volume e soffocare il paesaggio? Sembrava il Jovanotti Beach Party anziché il Giro d'Italia. Diamo spazio ai suoni, viviamoci anche i suoni della natura, gli arrivi delle corse, viviamoci i suoni del ciclismo che sono bellissimi. I suoni delle biciclette, i suoni dei tifosi sono belli, diamo spazio a quelli e non aggrediamo le orecchie di chi passa. Fine della mia polemica, è l'unica che ho fatto in questo Giro d'Italia, sono stato bravo, per cui almeno oggi me la sono permessa. Sì, sì, assolutamente. Condivido, sull'arrivo di oggi serviva un po' più di silenzio, ma va bene, magari le cose cambieranno. Direi di appropinquarci verso la cena, saremo allo Gnomo Goloso, quindi direi di darci da fare, perché altrimenti la nostra prenotazione scade. Dobbiamo andare entro 10 minuti. Gremo. Andiamo, ok. Allora ci diamo appuntamento a domani. Ciao a tutti, un saluto in più, lo aggiungo così in chiusura, assolutamente a Romina che ci aspettava sul percorso, ci aveva anche preparato lo strudel, non abbiamo fatto in tempo a incontrarla, ma la ringraziamo sempre del suo affetto. E numero uno. Ciao a tutti, a domani. Ciao. Ciao.